and your team. Your engine is on. Please fasten your seatbelt. Eccoci qua. E sono le 21.06 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi 28 giugno del 2017. Consueto appuntamento del mercoledì sera. E credo che per oggi sia l'ultimo, giacché 25 o'clock si è preso una pausa, per cui dovrebbe tornare, se non erro, tra un paio di settimane. 0649 1750 il contatto telefonico, il sito internet www.ondarossa.info funzionante. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info e per quanto riguarda il lato sottoscrizione 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 Viale Vosci 56 00185 Roma. Nel sito ci sono anche le modalità più elettroniche. Salutiamo Antonio da Firenze, Raffaele da Napoli, Rodrigo da Londra, Antonella dalla Sicilia, Kerry Favretto dalla Svizzera, Sisto Palombella dall'Emilia Romagna, se non erro, ce lo dica lui, ho un attimo di scarsa memoria, comunque lo salutiamo. E noi andiamo ad iniziare con la consueta cappatina dalle parti del Belgio che stiamo facendo da qualche settimana a questa parte. Belgium Experimental Underground 17 Survey, ovviamente il titolo. Asola, provincia di Mantova, ci rende dotti il buon Sisto Palombella, un nuovo saluto a lui. Tornando a questa compilation riguardante il Belgio, stasera ci andiamo ad ascoltare Inner Wound con Akfrond e un altro artista alquanto sotterraneo, ossia Perius Vultras con Ripple. lui si chiamava Inderwood, uno dei nomi sotterranei di questa compilation. Artista che si serve di un doppio basso e delle manipolazioni appunto con questo strumento, creando dei droni, dei drones abbastanza profondi come questa Half Ground. E siamo passati a un artista dal nome tutt'altro che belga, appunto Perry Svultras, e questa è Ripple. Molto diverso Perry Svultras rispetto al precedente Innerwound, forse qui c'è un accento più diretto verso il kraut rock nell'esperienza degli anni 70. Questo anche questo è un artista in attività da 20 anni. Stian Bojon, questo è il suo vero nome. Ringraziamo di queste preziose informazioni, chiaramente, Raffaele Pezzella, ideatore anche di questa compilation dedicata al Belgio. una compilation che lasciamo e arriviamo qui in Italia. Ce ne andiamo in Calabria da Giuseppe Costa, alias Io Sonu. Geniale percussionista, geniale uomo macchina, che dal vivo si avvale di marchingegni autocostruiti e molto strani, che si colloca addosso collegandosi anche alla macchina ed emettendo suoni anche attraverso il proprio corpo. Insomma, se vi capita di vederlo dal vivo ve lo consiglio caldamente, Io Sonu. Ultimo lavoro si chiama Happy Loser. Ci ascoltiamo Dr. One at 638 Antemeridium e Loser. E intanto salutiamo anche Alessandra di Radio Sonar. Thank you. Dunque, io sono questo talento alquanto eclettico, una new entry, diciamo, in queste selezioni di prove tecniche di trasmissione. Giuseppe Costa, ricordo, proveniente dalla Calabria, e questi umori mediterranei, questo calore mediterraneo che pervade questo album ne è una testimonianza tangibile. Un album che però si dipana anche su altre atmosfere coordinate, il tribalismo, un certo modo di usare l'elettronica, le percussioni che può ricordare Pankow oppure tomografia assiale computerizzata dall'altro. Interessante e da seguire. Intanto salutiamo Nicola dalla Sardegna e Fio Mazzer qui da Roma. Rimaniamo in Italia e ancora una volta ci andiamo a sollazzare con Carnera, con il secondo album, un secondo album dal nome La Notte della Repubblica, che appunto è un concentrato di memoria storica della nostra nazione e non solo, un concentrato sonoro e di documenti che esce attraverso la Old Europa Caffè. E quindi ci andiamo ad ascoltare 19 Italia, assai attuale, e un'ultima traccia che però è priva di titoli. Ecco dunque i Carnera di Giovanni Lea Leonardi e Ivan Battaglia. e lentamente sta sfumando questa grande opera del 2017, La Notte della Repubblica, sfornata da Carnera di Giovanni Leonardi e Iman Battaglia. Altre si aggiungono alla numerosa schiera di ascoltatori, mi fa piacere, Fulvio Biondo di Solar Lodge qui di Roma, Riccardo Martucci da Taranto, Enrico Carrino da Battipaglia, di Brucia Nuvole, apprezzato artista che abbiamo già ascoltato nelle scorse settimane. Lasciamo l'Italia, andiamo in Spagna attraverso una nuova avventura musicale che porta il nome di Dasein, un duo che però incide per la teutonica Galatcore, da queste parti assai apprezzata, soprattutto grazie all'opera di House Rafna, ossia dei fondatori e di tanti tanti progetti che ci ruotano intorno, o meglio, ci agiscono dentro. Questo è l'album d'esordio, That is the most certain possibility, da Sane. Thank you. Ennesima nuova creatura partorita dalla mente della Galat Corro. Si chiamano Da Sein, duo proveniente dalla Spagna, da Madrid esattamente. Spudoratamente si rifanno a November Novelet, loro sono Cas Visions e Fernando Opaino. Da seguire comunque, così immersi in questi umori tipici dell'etichetta tedesca. Da Sein, primo lavoro per loro, That Is Most Certain Possibility, dal quale abbiamo estratto Jailbird, That Drive, You Are Obsolete. Da un nome emergente andiamo invece da una vecchia volpe che risponde al nome di Dirk Evans, un suo ultimo lavoro, finalmente come Dive dopo molti anni di assenza e di silenzio, esattamente 13, da Behind the Sun del 2004, poi soprattutto compilation e dischi dal vivo. Approda lui al Out of Line di Lipsia, etichetta abbastanza famosa da queste parti, si chiama Underneath questo lavoro, e ci ascoltiamo il brano omonimo seguito da Far Away. Ancora Dive, ancora Undernet. Ultimo lavoro per Dirk Evans e il suo progetto Dive.